si yo, viene lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi stavo domandando se oggi fosse stata l'ultima trasmissione che faccio prima della fine dell'anno. Mi è stata data conferma, perlomeno l'ultima che faccio, stando qui carnalmente seduto davanti al microfono, e probabilmente domani andrà in onda una furbata. Sentirete la mia voce, ma io non ci sarò. Ve lo dico prima, in anteprima, non mi va di fregare proprio l'ultimo giorno dell'anno. Accade molto spesso che noi, molte volte, facciamo gioco su nostre particolari qualità o particolari situazioni o particolari debolezze o stati d'animo dei nostri interlocutori per avere delle situazioni di sopravvento. Questo è fisiologico, questo è normale, questo fa parte della nostra natura, del nostro bisogno, desiderio, necessità di sopravvivenza. Ma è giusto forse che nella valutazione del passato e nella valutazione delle speranze per il futuro legato alla nostra mesta equazione personale che computa la nostra vita in tempi così limitati come in degli anni, facciamo una valutazione di quanto siamo stati furbi nei confronti del nostro prossimo e di quanto ci siamo accorti perlomeno delle furbizie altrui. Il mondo è sempre furbo nei nostri confronti quando noi siamo sprovveduti. Il mondo è sempre callidamente attento ad entrare nelle fessure delle nostre disattenzioni. Ma quando ce ne accorgiamo, probabilmente chiamiamo questo esperienza di vita. Su questo argomento, devo dire, molto suggestivo, molto interessante, molto legato alla individuale esperienza di vita di ciascuno dei nostri ascoltatori, ci ha mandato un illuminante messaggio un ascoltatore. Io vorrei che lei affrontasse in una delle sue stupende trasmissioni il discorso dei furbi. Io sono aiutato dai furbi nella mia vita. I furbi hanno sempre ragione, arrivano sempre prima di me, che mi comporto in maniera corretta, sto alle regole, ma davanti a me c'ho sempre un furbo che non è stato corretto e non è stato alle regole. Parliamo di questi furbi e se riesce a distruggerli. 800 24 0024, parliamo dei furbi. Non è detto che io debba distruggerli, non è che oggi voglia fare il moralista, voglia impugnare la palma della persona limpida, trasparente, che ha sempre una faccia, sempre una parola, colui che mai si è approfittato del prossimo. Il mestiere che faccio è un mestiere da furbacchione. Se uno non fa il furbacchione non può mai parlare a un microfono, non può ogni giorno improvvisare, inventarsi competenze e dare a se stesso la possibilità di turlupinare il prossimo semplicemente avendo aperto Google davanti, avendo Wikipedia sempre acceso, avendo persone che ti suggeriscono nell'interfonico ogni cosa che tu puoi dire. Insomma, avendo un apparato di protezione così potente che è possibile far credere, far immaginare alle persone che ti ascoltano e tu magari sei in una posizione di privilegio intellettuale, di possesso di chissà quali qualità per poter stare in questo posto. In realtà, l'ho detto molte volte, avrei voluto stamattina darvi una prova palese, ma mi è stato impedito, che la situazione tipica di chi ha un apparato protettivo attorno, che normalmente è sempre un furbo, perché riuscirsi a procurare un apparato di simulazione della propria essenza è già una furbata. Assomiglia un po' al mago di Oz, questo triste, piccolo, indifeso mettino che però sembrava dotato di una potenza enorme solo perché stava dentro una macchina che ne amplificava la voce, dava a lui un aspetto terribile. Quindi improvvisamente questo metto diventava il grande, potente, intoccabile e infallibile mago di Oz. Beh, quanto avete nella vostra vita, nella vostra esperienza recente, quanto avete detto fra di voi, borbottando e masticando veleno la notte con la persona con cui dividete il talamo sacramente familiare, con la persona con cui dividete il bicchiere dell'osteria, o la persona con cui dividete la camicia di forza, la persona con cui dividete la cella, qualsiasi vostro interlocutore, vi siete lamentati della vostra non capacità e della vostra umana fallibilità nel non saper ponderare la furbizia del prossimo? Quanto vi sentite vittima dei furbi e quanto in una sorta di auto da fé spontaneo e auspicabile proprio sul finire di questo anno voi avete veramente fatto i furbi con qualcun altro? Buona? Sì. Fate così? Ne vuoi un'altra? No. Due cappuccini e due paste. Due cappuccini e due paste. 200. 200. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6. Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate due, no? Bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi, chiaro? Oh, andiamo. Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te. Andiamo, birichino. Vedi Paoletto, tu sei quando buono, nei primi anni 60, era il 63, Dino Risi consegnò all'umanità questo meraviglioso compendio di infingardaggine che era I Mostri, perlomeno la prima edizione dei Mostri, evidentemente voleva ricordare agli italiani, presi dall'euforia, presi da questo effetto trascinatore verso gli splendidi destini che era il boom economico, che in realtà noi eravamo intessuti di una sorta di antica, lontana, levantina, frutto di perigliosissimi incroci di flussi migratori, anima dotata di un senso di furbizia terrificante, terribile, che in fondo è quello che ci ha sempre fatto distinguere, è quello che rappresenta il più detestabile luogo comune sulla nostra italianità, ma allo stesso tempo rappresenta la risorsa nascosta di cui ognuno di noi sa che può attingere in certe situazioni limite. Noi tutti sappiamo che poi ci salviamo sempre, perché? Perché siamo anche noi un po' italiani. In questo caso era Tognazzi, che aveva questa sorta di educazione inversa rispetto ai canoni della buona educazione, delle buone maniere, del buon senso, del retto vivere nei confronti del proprio figlio. Insegna delle terrificanti stratagemmi per fregare il barista, per mangiare I cornetti e non denunciarli alla cassa, per rubarsi gli zuccherini, piccole cose, ma assommate agli altri faranno di questo ragazzino naturalmente un mostro uguale a quello che era il padre. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se è direzione di tardi? C'è la guardia, no? E allora? Fagli le corna, quel disgraziato. Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa: il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo. Hai capito bene? Ricordalo. Il mondo è tondo, chi non sa stare a galla va a fondo. Quante volte vi siete sentiti dire questa frase dagli amici più scafati, dalle donne o dagli uomini che avevano lacerato il vostro sentimento, avevano illuso la vostra capacità di aprirvi al mondo, avevano frantumato il vostro amor proprio, la vostra pudicizia, e di fronte a questa frase vi hanno fatto capire che in realtà era tutto una sorta di apparato costruito per ottenere uno scopo, perlomeno per vivere furbamente quello che è il lato migliore della propria vita. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito questo argomento e in effetti il mondo è pieno di furbi. Quello che volevo dire era semplicemente ma siccome questo. Lo dicono tutti, Francesco, non è che sì. Anche noi abbiamo fatto parte momenti sporadici della nostra vita della categoria dei furbi? Sicuramente sì, però bisogna anche fare un bilancio, no? Alla fine. E l'altra cosa che bisogna fare, secondo me... E quante volte non l'ha presa, quante volte non l'ha data, esatto, detto in termini... Anche. E l'altra cosa che bisognerebbe invece fare, secondo me, è, come possiamo dire, sponsorizzare la non furbizia, cioè la democrazia, la diciamo... Che è una grande furbata dire democrazia. È solo una furbata dire democrazia. Io mi sento dire spesso non sei democratico, mi viene da ridere smascherando la furbaggine di chi me lo dice. A me l'altro giorno mi ha fermato un signore per strada in una città della provincia del centro Italia, assatanandomi con i suoi portafogli, cinture, borsette. Ho detto per favore lasciami in pace, non era giornata, e mi ha detto dici questo perché io faccia nera. Mi sono girate le scatole in una maniera bestiale e... Ha iniziato una piazzata additandomi al pubblico dei ben pensanti come se fossi un pericoloso razzista, e capì la furbizia di quel signore, venendo dalla Nigeria, aveva capito perfettamente qual era il punto debole della nostra cattiva coscienza e sta facendo una furbata. Ero totalmente innocente da ogni pregiudizio, di cui soffro come tutte le persone del mondo. Ecco, al riguardo posso dire questo. La tendenza è di essere portatori sani di etichette. Mi spiego, come posso dire, alla fine quello che conta è l'etichetta e non il contenuto. Ecco, io mi rifiuto di avere una maschera e quindi voglio essere sempre sincero e schietto e, come possiamo dire, raccordare la mia memoria, la memoria di tutti, dall'inizio della mia giornata fino alla fine della mia giornata. Non voglio sconnettermi, non voglio, come possiamo dire, ma sì, ma tanto... chi se ne accorge. Non è vero, non bisogna tendere a questo. E non deve essere una moda, poi, o come posso dire, diventare un modo di vita. È assurdo, è completamente assurdo. Va bene, questo l'abbiamo detto e sì, ci siamo tutti sentiti più buoni condividendo quello che dice lei. Adesso andiamo al dunque. Sì. Quali sono i campi e le attività umane in cui secondo lei si esplicita maggiormente questa nostra tendenza alla furbizia, che è anche una grande lussuria? Essere furbi molte volte appaga moltissimo, nel lavoro, nei sentimenti, nei rapporti sociali, nel millantare un aspetto che noi non abbiamo. Ma io credo, diciamo, forse in tutti i campi c'è la furbizia, cioè non è che... Però dovrebbe essere, ripeto, dal cuore, essere giustificato, essere come portare delle prove che invece non bisogna essere furbi, che non bisogna essere falsi, perché poi alla fine è una falsità. Guarda, io non sono molto d'accordo, in questo provocherò la reazione del pubblico, chiamate 800 24 00 24, non bisogna essere falsi. Secondo me è una dose sapiente, calibrata e se vogliamo poetica di falsità aiuta anche il mondo a tollerarci, aiuta il mondo ad essere felice. Io se fossi spontaneo, esplicito e trasparente, come tutti dicono d'essere, cosa che non sono mai stato nella vita, crede le profonde ferite nelle persone che mi stanno accanto, nelle persone che ho di fronte, direi quello che mi passa per la testa, agirei in maniera diretta, ma sarei un automa, sarei una macchina, sarei uno scimpanzé, non sarei un essere umano, che fa della furbizia anche una capacità di vivere socialmente. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Lei si fa suo e glorifica il più terrificante i luoghi comuni. Siamo in Italia, siamo tutti furbi, verissimo probabilmente, ma vediamo che uso fa lei di questa verità di vita. Non siamo furbi perché siamo circa 60 milioni di italiani e ognuno ha il suo giochetto Nintendo. Io non è che sono proprio un telematico, però ognuno ha il suo giochetto e lo applica, e c'è un equilibrio. Poi ci sono i furbi legali, i furbi illegali, capisci? Cioè ci sono i furbi legali, quelli che lavorano magari nel pubblico, che non fanno niente dalla mattina alla sera, stanno là, guardano, fanno la loro vita. Ci sono i furbi un po' illegali, quelli che lo operano nel privato. Io vedo su Facebook, infatti mi scrive un'ascoltatrice, mi dice: i furbi sono quelli che aspettano il condono per riportare in Italia capitali su cui non hanno mai pagato le tasse. Beh, questi sono i furbi appartengono alla categoria dei furbi professionisti. Ma mi piacerebbe parlare... Ma furbi professionisti, se qua ascoltando le leggi, uno muore. Se tu stai secondo le leggi in qualsiasi settore privato sei destinato a morire, quindi sei costretto a essere furbo. Nel 94 a una trasmissione di Funari hanno fatto una domanda al ministro dell'economia: lei con quanti gente conosce che se non avesse evaso avrebbe fallito? Tutti. Sì. In Italia noi abbiamo delle regole, che se uno sta alle regole muore. Quindi diciamo c'è già un sistema in sé che istiga alla furbizia, e va bene, questo non entro in merito, è sicuramente così. Non ho mai svolto attività commerciali per la fortuna dell'economia nazionale, però mi rendo conto che è necessario sapere almeno usare al massimo tutte le possibili vie lubrificanti per uscire dallo stritolamento dei sistemi fiscali. Può essere che sia così, però a me piace più entrare in alcune piccole furbizie individuali, personali. Mi piace smutandare la integrità violata dei nostri ascoltatori e ascoltatrici dalla furbizia triste, cattiva, improvvisa e inaspettata che viene dal proprio prossimo. Lei cucina. E cosa sta preparando? Abbaccio brodettato. E fa anche la spesa? Sì, faccio anche la spesa. Io lo so che tipo è lei. Ha il suo macellaio di fiducia che le tiene da parte i pezzi migliori. Perché c'è qualcosa di male? E certo che c'è. Se ci vado io poi mi prendo i pezzi peggiori. Questo è Nanni Moretti in Bianca, che comincia in maniera nevrotica comunque a cercare di vedere con la minuzia tipica dello psicopatico, tale quale era almeno in quel film, di smascherare quelle che erano le quotidiane maschere di furbizia, il macellaio di fiducia, quello che dà i pezzi migliori, quello che dice alle signore: signora, c'ho sto pezzo di filetto crudo dove vuole che glielo metta, cose del genere. È anche l'equivalente di quello che oggi è l'erborista. Stamattina è venuto a trovarmi una gruppi con un flacone di sali del Mar Morto che gli ha dato una sua amica, che improvvisamente attraverso chissà quale segreto pusher che lo porta, che sanno ancora di piedi di Tuareg che li ha appena presi. In realtà è sale banalissimo da cucina, ma messo dentro un flacone zozzo e infangato, l'idea che sia chissà quale medicamento. La furbizia passa anche attraverso dei linimenti della necessità che hanno queste povere fanciulle sentirsi gratificate da un massaggio esotico, qualcosa che viene da lontano, qualcosa che preserva le loro candide pelli. Michela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, io volevo semplicemente portare la mia esperienza come cittadina italiana, ma comunque cresciuta negli Stati Uniti. Sono venuta qui almeno 20 anni fa e posso assicurare che ho fatto una gran fatica e purtroppo ho dovuto adattarmi moltissimo a queste furbizie che non mi sono familiari, non mi erano. Ecco, e mi cozzo continuamente contro una cultura che non sento mia, perché appunto vige questo modo di essere furbi, dal macellaio, come dice lei, al fisco, ai rapporti umani. Ecco, questo voglio dire. Sì, a me, guardi, mi diceva, mi conforti di questa testimonianza che mi ha dato un amico proprio a cena poche sere fa. Mi disse, guarda, esistono i grandi magazzini negli Stati Uniti dove tu riporti una merce perché non la consideri adeguata alle tue aspettative, sì, e te la cambiano senza, sì, problemi. Certo. Ci ho visto persone, amici miei, riportare delle scarpe usate, sì, e gli hanno cambiato con scarpe, no, senza battere ciglio, senza nemmeno pensare ci potesse essere. Dice, signore, vede, questo modello non c'è più, mi dispiace, le diamo un altro modello. Perché non entra in un sistema basato su altro tipo di valori, su un'altra cultura, su un'altra visione del mondo, su un'altra anche particolare religione che è molto più basata sulla fiducia reciproca, cioè essere fra persone, perché come diceva Franklin, chi paga tutti i suoi debiti è padrone del capitale anche della persona che gli presta soldi. Noi invece il contrario, tendiamo a fregare, facciamoci prestare qualcosa, non la ridaremo mai più, inventiamoci scuse, la mamma morta, la figlia polomenitica, sempre trova delle maniere per approfittarsi degli altri. Un sistema che invece, con tutti i suoi limiti e le sue falle, non prevede questa opportunità della furbizia, candidamente ti ridà per le tue scarpe sfondate usate un paio di scarpe nuove. E sono così le cose. Oddio, forse lì c'è anche molto di marketing. Il punto è di vendere, perché il marketing è molto importante negli Stati Uniti. Però io vorrei concludere, se mi permette, dicendo, per esempio, io ho un figlio di 15 anni e le posso assicurare che la difficoltà nell'insegnargli, nell'educarlo, cosa devo insegnare a questo mio figlio? L'onestà o la furbizia? E con questo problema, con questo dilemma, io tuttora mi ci confronto. Servirebbe un Tognazzi per casa? No, voglio dire, non so bene cosa insegnarli, perché francamente è molto difficile essere onesti. Ma io penso che imparerà da solo, prendendo qualche bella tramvata sulla fronte, capendo che in fondo il miglior vivere è un simpatico, intelligente, furbo mix di sincerità, di spontaneità, di messa a nudo dei propri sentimenti, che fa tanto colpo nel nostro prossimo, ma allo stesso tempo una retromarcia pronta di furbizia per cogliere nel momento di debolezza la persona che abbiamo così stupito con la nostra candida esposizione anche dei nostri difetti. Questo fa parte della capacità di riuscire a vivere, perlomeno questa è la mia formula personale. Andrea, buongiorno. Buongiorno. E poi? No, niente, volevo intervenire su questo argomento. Dicevo, io l'altro giorno sono stato al supermercato, ho preso il carrello, sono entrato, pagato, ho messo l'euro nel carrello. Sono uscito per prendere una cosa scordata in macchina e mi sono trovato che mi aveva fregato il carrello. Ecco, ora, se io devo essere vagamente invidioso di una persona che è più furba di me perché fa queste cose in piccolo o in grande... Ma ci mettiamo anche un po' di buona fede, magari una povera vecchietta un po' rincoglionita, ha visto il cartello... Ma non lo so, ne dubito, perché uno entra in un supermercato, il carrello se lo prende... Lo vede libero, dici, vedi, abbandonato da qualcuno. Per un euro. Ma a parte quello, no? Ma se uno deve essere nel piccolo, ne ho fatto un esempio, nel piccolo non è grande, geloso di episodi di questo tipo, o comunque di persone che portano le scarpe usate perché sanno che lì gliele rendano nuove, fregando il negoziante, io preferisco rimetterci che essere in quel modo lì, francamente. Cioè... Sì, questo fa parte delle maniere vergognose, ma esiste anche una splendida, aulica, aristocratica furbizia che fa godere quando uno riesce a essere furbo. Nel piacere del possesso, della buona fede del nostro prossimo c'è una sottile lussuria. Non facciamo tutti gli angioletti, sembra che la rettitudine ha sempre improntato ogni nostra azione. chiaro, questa è la furbizia, la morte di fame, farsi cambiare le scarpe sfondate o rubare il carrello, fa pena. Se scoperti, come quelli scoperti senza biglietto nell'autobus, io giorni fa c'era un ragazzo che studiava giurisprudenza, provò una disperata tentativo di resistenza al poveretto che per suo mestiere gli vuole fare la multa. Lei non può chiedermi un documento, lei non è un pubblico ufficiale. Questo ha detto: guarda, fammi cazzo, come diavolo ti pare, questa è la multa, se vuoi pagarla pagala adesso, se non la paghi maggiorata ciao. Tutto rosso, alla fine ha preso e ha pagato, ma per tutto il resto della corsa di autobus è stato guardato dal disprezzo di tutte le signore che hanno il loro abbonamento bello fatto in mano e firmato. Quindi esiste la parte vergognosa della furbizia e il lato oscuro della forza, che è quella furbizia che veramente ci piace. Piera su Facebook mi scrive, Daniela, una storiella vera avvenuta anni fa in Veneto. Un anziano signore con la macchina di grossa cilindrata stava aspettando di entrare in un parcheggio libero. Arriva uno con una macchinetta, gli frega il posto e uscendo gli dice: il mondo dei furbi. Questo signore col macchinone mette la prima e gli sfascia la portiera e gli dice: il mondo è dei signori. Sono scomparsi tutti improvvisamente, non vedo più nessuno. Beh, abbiamo ancora un... ecco, Gabriella. Senta, io col discorso dei furbi sono un po' in loco. C'è uno che mi sta scrivendo adesso su Facebook: Gianluca, quando ricomincia Melog? Lo segherò, perché questo ascolti, non è... Prego. Per me la furbizia è una mancanza di rispetto verso gli altri, anche verso se stessi. E in più, se noi usiamo male la lingua italiana, che quando uno è disonesto lo chiamiamo furbo, incitiamo gli altri a essere disonesti. Lei non ha mai fatto la furba in vita sua, signora? No, io non ho bisogno di fare la furba. Sì, tutti ne abbiamo bisogno, signora. No, questo no, non è vero. Perché io ho molto rispetto degli altri. Ho capito, ma siccome gli altri non hanno rispetto di noi... Secondo me, le persone si comportano così quando non sono in grado e non sono capaci e non vogliono mettersi all'opera per difendere i propri diritti. Allora cercano con la furbizia di imbrogliare qualcuno perché sono stati imbrogliati a loro volta. Va bene, questo è, diciamo, sono quelle cose cattive e brutte che fanno tanto male all'anima e al corpo. Ma esistono delle piccole quotidiane dosi di furbizia che secondo me usiamo tutti, io me ne faccio carico, non è che voglio... No, io non lei si assolve completamente dal reato di furbizia. No, ascolti, io non mi sento né furba né capace, né niente, io mi sento una persona normale, tranquilla, che rispetta... Normale non esiste. Ma normale nel senso che io rispetto le persone, non ho bisogno di imbrogliare, cioè io se c'è qualcuno che mi accorgo che mi imbroglia mi difendo e va bene, si difende. Cerco di difendermi. Ma a sua volta non ho mai avuto delle occasioni nella vita in cui ha dovuto lievemente simulare, accelerare, cambiare qualcosa del suo atteggiamento, del suo stato d'animo per avere un maggior vantaggio da quella relazione, da quella situazione? No, guardi, l'unica cosa che posso dire è che con i figli, magari per aiutarmi a fargli capire quando fanno i capricci, magari di condire la pillola in un certo modo per fargli fare magari i compiti, per fargli fare determinate cose. Ma non è che io mi sento speciale, io mi sento naturalmente me stessa. Lei è un esempio di eroica virtù, signora. Non lo so se è una virtù, io so che non mi sembra corretto imbrogliare o usare... Ma certo non è corretto, ma... usare la furbizia per far fare delle cose... Ma chiunque di noi quando fa il furbo sa perfettamente che non è corretto e... Il retrogusto di piacere dell'essere furbi sa proprio che si va contro le regole, ma non sa che la trasgressione è divertente, piacevole, è stimolante molto più che la rettitudine. Io mi sento libera, ma io non è che mi sento retta come persona, mi sento una persona, in linea con... Io ho bisogno di rispettare... Se no, io ho tentato di corromperla in tutte le maniere, non ci sono riuscito, la sua virtù è inattaccabile, sono molto lieto e molto contento per chi le sta vicino. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Caro Tersilli, sarò franco. Ho qui una relazione sulle notule mensili presentate dall'amministrazione della tua clinica. Per esempio, a Villa Celeste il 72% dei bambini nascono con parto cesareo. Non c'è appendicite che non sia complicata da peritonite. Tutte le ernie sono strozzate, perfino le riniti sono curate chirurgicamente, per non parlare poi delle radiografie, stratigrafie e trasfusioni e applicazioni di rene artificiale. Tersilli, io ti sto parlando da amico. E anch'io ti parlo da amico. Mi arrangio. Come? Prima di tutto cercando di convincere il mutuato a prendere una camera singola, facendogli pagare intanto la differenza fra quello che passa la mutua e la retta. Non lo capisci che siete voi mutue che ci obbligate a fregarvi? Tersilli, non dipende da me. Io sono un semplice funzionario con mansioni di controllo. Ma che cosa credi che sia divertente per me dover fare i conti in tasca ad un amico come sei tu, ad un collega? Per quello che mi pagano, poi. E ho famiglia, Tersilli. Vedi, io ti parlo a cuore aperto. Ho capito, Lamprè. Anch'io ti parlo a cuore aperto. Vedi a Vianello che occupava la tua poltrona prima di te, io gli davo il 3%. A te che sei un amico ti do... Il 10, il 5, l'8, 4. Il 5. (ride) 800 24 0024, stiamo parlando di furbi, mi sembra di capire, perlomeno nel percepire la reazione del pubblico, che cominciano a stabilirsi due filoni di furbi: furbi ufficiali, furbi professionisti, furbi fisiologici invece. I piccoli furbetti, coloro che fanno delle piccole furbizie una sorta di contributo al loro vivere quotidiano. Ma altrettanto vero, come appunto mi sta scrivendo un ascoltatore, che quella dei furbetti è diventata un po' una nostra fissazione, molto localistica, molto legata alla nostra equazione individuale. Dice Marco: in questo mondo civilizzato non si fa altro che vedere i furbetti, furbetti del quartierino immobiliare, furbetti bancari, furbetti del condominio, furbetti per la strada, furbetti alla mensa d'ufficio, furbetti in tutti i posti, ci sia da fregare qualcosa e qualcuno. Indovinate quali sono i posti più redditizi per furbetti di stato ad alto livello? Chiedetelo, non lo so, ditemi qual è la professione che il furbo abbraccia in maniera preferibile, qual è la vera professione del furbo, soprattutto quali sono le piccole furbizie quotidiane. Mi scrive un'altra ascoltatrice terribile: c'è una vecchietta ottantenne che abita al piano sopra dell'ufficio dove lavora, ed ogni volta gli chiede dei soldi. Ogni volta dà a Piera, a questa vecchietta, 10 euro. Ma comincia a pensare che sta vecchia ci stia marciando, non sia proprio così bisognosa. Però la sua coscienza del fatto che aiuta una persona bisognosa è in continuo conflitto con il desiderio di smascherare la furbizia della signora. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sto ascoltando quello che dite, lo trovo molto interessante, però credo anche che sia particolarmente interessante riconoscere che i furbi alla fine sono un po' meschini, quindi probabilmente credo che siano meglio i ladri, quelli veri, quelli che ci mettono la faccia, che rischiano di andare in prigione, che pagano di tasca propria, insomma, o no? Sì, no, ero distratto dal... Cos'è, metropolitana? No, un casello autostradale. Ah, il casello autostradale, sì, inserisce. Deve introdurre la tessera. Guardi... No, la introduca. Tanto, se vuole introduce la tessera, passo giù ditta. Poi dopo che ha introdotto, riprendo con lei. Faccia pure il passaggio del casello. Arrivederci. Passato? Sono passato. Ah, perfetto, è passato indenne. Allora, mi Paolo. Perdoni. No, si figuri, ma è normale. È che vuole rimanere fisso lì con la fila dietro. Poi tutti le danno dello scemo, non del furbo, perché esatto. Nei passaggi autostradali dove si usa la carta di credito, c'è sempre l'imbranato, la mette al contrario, che non sa dove si infila, che scende, chiama aiuto. E uno dice sempre: sono sempre capitato nella fila del... Invece non è così esattamente. Ma anche slow, insomma. Ecco. Invece il vero furbo è quello che nella sua situazione, quando c'è molta fila al casello, passa a destra, passa avanti, si infila, trova la macchina che stringe prima di entrare nel punto cruciale, e c'è sempre il furbo in questo caso. Certo. Guarda avanti, guarda dritto, fa finta di nulla, ti stringe sempre di più, alla fine cedi e lo fai passare. È passato 10 macchine di fila. Ecco, lei pensa invece come è più bravo un vero ladro, un rapinatore? Sì, il rapinatore rischia del suo, ma anche il truffatore lavora su un altro piano. Il furbo in fondo è un truffatore dilettante, è un truffatore dei sentimenti, un truffatore della buona fede. Quando il furbo diventa un professionista, comincia a truffare. Abbiamo parlato degli evasori fiscali, è una forma di truffa nei confronti dello Stato, è chiaro, non è più essere furbi. La piccola furbizia meschina, ecco, appunto quella di saltare la fila, quella di anch'io, tutti hanno avuto l'amico che ti chiede i 50 euro e poi non te li ridà mai più, capito? Piccola, stupida, banale furbata, mettere a repentaglio la buona fede di una persona per 50 euro. Ma soprattutto, ma ma soprattutto mettere a repentaglio la propria faccia per 50 euro, no? Sì, ma vedi, la faccia è un concetto molto individuale. Persone hanno la faccia come il culo e non se ne vergognano, anzi ne vanno fieri. Lei non la misuri su di sé questa cosa. Per molti la faccia ormai è un accessorio di cui sono lasciati, cioè la rispettabilità della propria faccia o la vergogna delle proprie azioni, qualcosa sono lasciati alle loro spalle da decenni, quindi non è quello il problema. Non dobbiamo parametrarla su di noi, diciamo, ma non si vergogna, no, tanta gente non si vergogna, non ha la cognizione, proprio penso sia un fatto genetico, di quello che sta facendo. Ma secondo lei questo accade da noi? Per quale no, accade ovunque, da penso. Da noi è molto più palese che da altre parti, diciamo la verità. In altri luoghi esistono altre forme di sopraffazione tra esseri umani. La furbizia sì, è molto fisiologica. Il luogo comune sugli italiani furbi in realtà affonda le radici su una radicale verità. Tentiamo sempre la scorciatoia, la via breve, l'intrallazzo, la maniera barocca e articolata per arrivare a un luogo in cui si arriverebbe rettamente. E siamo molto ipocriti e molto furbi anche nel simulare sentimenti, nel giocare con i rapporti, nell'avere vite specchiate e esistenze in realtà per nulla integerrime. Ci sono vari livelli di furbizia. La saluto Paolo, la lascio andare avanti, sennò faccio perdere troppo suo tempo e passo a Giuditta dicendo: mi piacerebbe però questa mattina che qualcuno chiamasse all'800240024 e dicesse: io faccio il furbo, io l'ho ammesso, potrei farvi un elenco di situazioni in cui faccio il furbo, a parte che prendervi in giro quando parlo al microfono, non ho difficoltà ad ammetto, fa parte della mia natura umana, perché non mi chiama un furbo e mi spiega veramente i segreti della furbizia? Giuditta, buongiorno. È una furba lei? No, guarda, in certi momenti mi sarebbe piaciuto esserlo, però proprio non lo sono. Non ha mai fatto la furba in vita sua? Ma no, ma... Ma tutte Marie Goretti, possibile? Parlo però delle piccole furbizie, quando sennò diventano truffe, diventano cose... Piccole furbizie, sì, quelle piccolissime. E piccole, quelle che per esempio ci sono delle mogli... Nasconde una marachella suo marito. Sono furbe. Cioè è un grande lusso non essere furbi in certe situazioni, secondo me. Perché se uno... Non deve ricorrere alla furbizia, ha già tutto, è un lusso. Tante volte le persone devono cercare proprio di ottenere con la loro furbizia delle cose che per altre invece ci sono già. Però le risponderebbe una persona meno dotata di sensibilità, dice: sì, grazie, ma la situazione di privilegio l'hai ottenuta facendo il furbo. Tu adesso non ti serve più, a te non serve più niente, perché hai fatto il furbo per i primi 30 anni della tua vita. Adesso sei, come diceva quello che ha spaccato lo sportello al poveretto che gli ha preso il parcheggio, sei un signore, grazie. Ma quanti ne hai messi nel sacco per avere la macchina per spaccarmi lo sportello? Sì, ma questo sì, secondo me succede anche nei rapporti con le persone più vicine, con i familiari. Cioè la madre furba, per esempio, è quella che lascia i figli più liberi, non perché ritiene che sia meglio per loro, ma perché così dopo loro la cercano. Cioè io penso che... Beh, quelli sono escamotage d'amore, non possiamo chiamarla furbizia. Le tecniche di fascinazione e di mantenimento di una relazione non sono... L'amore... L'amore è la più grande maniera di turlupinare il nostro prossimo, tenere a sé una persona. Quindi è basata su costruzioni. Non è naturale l'amore, nemmeno l'affetto, nemmeno il tenere a sé una persona legata. È fatto, dice, la chiamo o non la chiamo? È meglio che non la chiamo, perché magari così mi desidera, anche se desidero chiamarla. Oppure la lusingo o non la lusingo? Le faccio un regalo o non le faccio un regalo? Sono duro o sono morbido? Mi cospargo di liquami profumati per nascondere ciò che mi è passato prima addosso? Tutta una serie di furbizie per mantenere un rapporto. Sì, però secondo me esiste proprio questo nella vita normale, che certe persone... Ma qual è la vita normale? Voi usate questa parola sempre. Mi spiega cos'è per lei la vita normale. La relazione normale fra colleghi. Ma pensi che tristezza, due persone non hanno bisogno fra di loro né di mentire né di simulare nulla. È come avere due persone trasparenti, che sono due scheletri, due ammassi di viscere. Il bello è la pelle che nasconde ciò che noi abbiamo dentro. Il bello è il comportamento che nasconde quello che noi siamo. È da sempre sorpresa agli altri, nel bene e nel male. O è con... Beh, pensa diversamente. No, ma era un aspetto di questo argomento interessante. Signor, io odio il buonismo, lei lo sa. Quindi se lei si fa portavoce di buonismo, mi avrà sempre come crudele martirizzatore del suo buonsenso. Va bene, allora, ma... Va bene, sento del cedimento nella sua risata, quindi siamo sulla strada buona. Andrea. Pronto? Avanti. La prego, mi dica che fa il furbo qualche volta. Io non ne posso più di questa galleria di santi infilzati. No, io lo faccio. Furbo, oh, perfetto. Perché, ma non per cattiveria. Perché no, perché mica uno è cattivo il furbo. Il furbo è anche un benefattore dell'umanità. Se io ho un povero disgraziato gli faccio credere che sono suo amico, gli faccio un favore. Allora, no, io tendevo a puntualizzare questo, perché io sono una persona di 45 anni, ho avuto un'ottima educazione, un padre che mi ha insegnato a essere onesto. Questa onestà nel tempo ha avuto un piccolo mutamento, perché effettivamente la vita in Italia, come quella signora nata in America, vissuta in Italia da 20 anni, si è trovata a una realtà completamente diversa, dove una persona effettivamente deve trovare le armi necessarie per difendere. Me ne descriva qualcuna di queste armi, così almeno facciamo una trasmissione di servizio. Lei ha parlato prima di furbizia, anche nell'ambito di lavoro, no? Ci sono persone, io sono un militare, guardi, quindi io sono una persona che ho un regolamento di disciplina militare che devo rispettare a tutti gli effetti. In cui sembra impossibile trovare degli spazi liberi di furbizia. Io so, ho fatto, sono delle tre persone in Italia che ha fatto il servizio militare, quindi so esattamente di che si tratta. Sì, io lo faccio da 25 anni, per me è una professione. Ognuno si fa male come vuole. Sì, sono un ufficiale di marina, quindi guardi, ho 15 anni di imbarco sulle navi. Quindi avrà una donna in ogni porto, tanto per cominciare con le furbizie. Sì, da ragazzo ci mancherebbe. Mancherebbe, no, quello no, perché? Perché negarlo? Perché lo devo negare? Per qual motivo? E quindi quali sono però, diciamo, le fessure di furbizia nel quale si, nonostante la rigida disciplina da uomo di mare, si insinua per vivere felicemente la sua natura umana? Bravissimo. Per quello che gli ho detto, io ho avuto un'educazione molto, molto, non dico ferrea, perché con mio papà ci siamo avuto un ottimo rapporto, ma un rapporto un po' più distaccato. La mia generazione, non so che età abbia lei, però mediamente veniamo da Vado per i 70. Sì, che bella, c'è una voce bella giovanile, mi fa piacere. E questa fa parte della furbizia. Ecco, mio papà è del 38, quindi le dico che è una persona eccezionale, però con lui parlavo pochissimo, con lui non avevo un rapporto. Era militare anche suo padre? No, mio nonno era un ufficiale dell'esercito, era anche professore di lettere, quindi gli dico, era del 1886. Che avuto un... Quindi al di là di questo, però, una famiglia numerosa, una famiglia molto unita. Io ho 3 bambini, no? Per dire. Ma dov'è la sua furbizia? Ancora non ho capito. La mia furbizia? No, io non sono una persona molto furba. Cerco di essere furbo con le persone con le quali mi rendo conto che vogliono essere furbi con me. Cioè con il povero mozzo che pulisce il ponte? Cioè se io vedo davanti a me una persona che si pone nei miei confronti, a questa età lo posso dire, in modo furbo, cerco di essere furbo più di lui. Ah, quindi lei, diciamo, ha una furbizia punitiva di ritorno, ha un senso catartico della rettitudine dell'umanità. Lei non è un vero furbo in realtà, lei è un applicatore di disciplina, e giustamente se uno rompe la disciplina facendo il furbo, lei lo riporta ai suoi ranghi, giustamente. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dal traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Trucchi per copiare a scuola. Il lettore MP3. Registrate tutto ciò di cui avrete bisogno per il tema nel vostro lettore MP3. Poi nascondetelo all'interno della manica della camicia o maglietta a maniche lunghe. Fatevi scorrere dentro la manica, lungo il braccio, il cavo delle cuffiette. Fissate una cuffietta ad un orecchio che nascondete appoggiandoci sopra una mano e assumendo la tipica insospettabile posizione dello studente assorto. Per completare la scena, fate la faccia impegnata e sofferente mentre trascrivete quello che ascoltate dal vostro lettore. È un po' la versione contemporanea di Tognazzi che insegnava al figlio a fregare al bar. Sono innumerevoli luoghi nella rete, in questo caso abbiamo preso da delle sezioni specializzate su YouTube in cui si spiega come fregare a scuola, come fregare sui compiti, come copiare, quali sono gli escamotage elettronici e telematici per eludere quella che è la regola, quella che è la retta maniera di comportarsi, cioè essere valutati perché lo realmente si sa. È una scuola di furbizia, ma ammantata comunque di Web 2.0, sembra una grandissima figata che tutti fanno come il peer-to-peer, come lo scambio dei file, come scaricarsi i film rubacchiati, le musiche illegali e via dicendo. È un'attività che tutti facciamo, sappiamo che è una furbata, ma mi sembra qualcosa che fa parte della furbizia tollerata ai nostri tempi. Non so darvi una risposta, non so dirvi se è bene, se è male, lo faccio, l'ho fatto, lo farò come l'hanno fatto tutti, come lo fanno tanti, ma come mi dice un ascoltatore su Facebook, la prima giustificazione del furbo è proprio perché lo fanno tutti. Sonia, cosa ha da dire? Qual è l'impressione che diamo sbagliata del termine furbizia? Secondo me sì, si sta confondendo furbizia con meschinità, che sono due cose ben diverse. Io sono una furba, allora. Ma non è meschina. No. È una furbata, vuole essere furba, non vuole essere meschina. Scusa. Ma assolutamente no, perché voglio dire, essere furbi non significa necessariamente nuocere agli altri, talvolta significa aiutare se stessi e gli altri. Ma l'ho detto prima, io sono furbo per fare del bene al prossimo. Autostrada, no? Sì. Tutti viaggiamo in autostrada e ognuno di noi ha un modo di guidare un pochino diverso. Ora, al di là delle problematiche giovanili, dei ragazzi che corrono senza, io parlo guidare regolarmente, normalmente, cioè... Quante persone guidano in maniera tale che ti fanno fare la furbata e poi ti dicono, oh, ma guarda quello è furbo. No, in realtà sto aiutando. Ma anch'io quando vedo il guidatore con il cappello in testa, lo supero a destra e gli passo sopra, non faccio una furbata, è un atto di giustizia, lo so benissimo. Ma non è questo l'essere furbi, che sono escamotage. Nel mondo del lavoro, furbata, che cos'è la furbata? Imparare dal proprio lavoro e imparare ad utilizzare il tuo cervello in maniera costruttiva e andare avanti imprenditorialmente, perché furbata? Non è una meschinità. Sì, ma guardi, bisogna secondo me fare dei distinguo. Io penso che ognuno di noi in coscienza sa esattamente quando si muove nell'area limacciosa della furbata e quando fa parte, diciamo, dei tecnicismi necessari di ogni professione. E si tratta di nasare il mercato, di cogliere i punti deboli, di aggredire quel particolare settore. Quello fa parte del mestiere, che è anche le attività imprenditoriali hanno un concetto di etica parametrata a quell'attività imprenditoriale. Non esiste un'etica assoluta. L'etica assoluta sarebbe, non so, la comunione totale di tutto, ma non è così, è reale, non può esistere questa cosa qua. Secondo me ognuno di noi, anche il più incallito, anche colui che non ha più coscienza, colui che ha abbandonato la dignità della propria faccia, sa esattamente quando si comporta da furbo. Lo sa, ma solo quel campanello della coscienza non fa mutare il suo temperamento. Quindi lei dice è una furba non meschina. Lei sa che le sue gloriose furbate fanno parte della sua professione. Vorrei sentire se pensa altrettanto, in altrettanto maniera, la persona che a volte le subisce queste furbate. Questo bisognerebbe capire. Esistono dei sistemi per fregare l'autovelox? L'acca sulla targa? O un CD dietro il parabrezza? Se io faccio una fotocopia di una targa e la metto sulla targa mia, da lontano difficilmente si può capire che quella è la fotocopia. In questa officina taroccate dei targhe per fregare l'autovelox. Vengono molte persone a chiedere di effettuare questo lavoro, solo che noi non li facciamo. Le persone che per esempio devono fare un viaggio, io dico io stasera devo andare a Roma, mi serve praticamente coprire la targa perché vado di fretta, queste cose qua. Allora le persone vanno in un'officina che effettua questi lavori e si fanno truccare le targhe. Questa è una E e diventa F. La C si può trasformare in una G o addirittura in una O. Ma un lavoro di questo tipo quanto può costare? Potrebbe essere intorno ai 50-100 euro. Qual è il sistema più efficace per fregare l'autovelox? Lei quale consiglierebbe agli automobilisti? Ma guardi, questo è sempre un rischio, perché è sempre correre un rischio magari effettuare un lavoro del genere, però noi a Napoli siamo un detto. Sciumazzattaral. Sono sprovveduto di un traduttore simultaneo. Capito tarallo, qualcosa del genere, però mi fanno dei segnali molto eloquenti che portano il pollice e l'indice di entrambe le mani a simulare una sorta di cerchio che si allarga in maniera spaventosa di fronte alla persona che mi fa questo segno, quindi comincio a capire di più cosa significa, e anche la parola mazzo a questo punto ha un suo senso. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è un furbo, finalmente. Ma non so se dovrebbe essere contenta. Vabbè, io sono un furbo, perché non sono un furbo, ma ho fatto il furbo per entrare in trasmissione. No, beh, ride soltanto lei, però a me non fa ridere. No, a parte questo. Sono fatte le coglioni, scusi. Ride. Si fa i furbi nella vita. Allora, qual è la furbata? Però, a parte questa, la mia critica è questa. Secondo me si sta sbagliando in generale la terminologia. Furbo è come un intermezzo tra chi si comporta bene e chi si comporta male. Un apostrofo rosa. È come una linea di confine dove si dice: ah, hai fatto furbetto, da lì in poi però se esageri sei... si diventa criminali, si diventa crudeli. Criminale, certo, si comincia a entrare nella lesione altrui. Fino diciamo sono lesioni temporanee, non gravi, sì, quelle che fa il furbo. Le lesioni gravi cominciano a essere quelle del criminale, il delinquente, della persona. E va bene, questo le do d'accordo. Le do d'accordo, sono d'accordo. I furbi sono questi, insomma, essere furbo senza fare del male a nessuno, ma riuscire a... si può essere furbi etici. Però onestamente, Andrea, lei ci crede, le persone dicono: io non ho mai fatto il furbo in vita mia. Sì, è vero. Io pensavo di non riuscire a prendere la linea, invece. Ma adesso mi spiega una cosa, dov'è la furbata? Cioè aver preso la linea, qual è il suo... No, perché io non mi ritengo il suo furbo. Beneficio di aver preso la linea? Solo questo, no, non mi ritengo un furbo. No, ma qual è il beneficio cattivo, che ho ottenuto? No? A me diverte, ma sfangato un minuto di trasmissione, io sono contento. Ma il suo beneficio qual è, di aver ottenuto la linea per non dire nulla? No, ho detto, non è che ho detto ha chiamato i parenti, adesso parlo alla radio. No, assolutamente, sono in macchina, sto andando al lavoro. Il fatto è che ho potuto dire che secondo me vi state sbagliando, nel senso lei mi ha messo in contraddizione, trovare il cattivo, no, nel furbo, ma anche il cattivo nel furbo non c'è, perché la terminologia furbo è proprio il discorso che sì, sei furbo, hai fatto una cazzata, però non hai dato troppo fastidio, da lì in poi cominci però a dare, cioè è una parola che con la quale si può dire di qualcuno, diciamo una cosa, Andrea, qualcosa quasi di male. Sì, quando qualcuno dice stai facendo il furbo, io almeno provo una grande vergogna. Sì, prova vergogna, cioè, dire, ma tu stai facendo il furbo, fatto, è brutto. Sì, perché se si fa un'infrazione stradale è meglio sentirsi dire sei un criminale, vergogna, eccetera. Siamo, vabbè, Andrea, basta, mi sono scocciato, buon viaggio, arrivederci. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo ammettere due furbate. Beh, lavoro in un ente pubblico, quindi ne dovrebbe sapere. Sì, prima volevo ammettere due furbate perché ho sentito tante esperienze di gente che non ammetteva furbate. Io volevo dire innanzitutto che in università mi è capitato di scopiazzare a qualche esame. Vabbè, che vuole che sia questo. Però devo dire che pregavo che gli esami fossero in forma orale, perché almeno lì non provavo i sensi di colpa e alla fine andavo bene anche in quegli esami, quindi... Proprio soddisfazione da questo punto di vista. Con questa sua intermittenza, però, forse era meglio che la metta in forma scritta. No. La sento in maniera intermittente, diciamo. Mi spiace. Ma non è problema. E poi un'altra furbata è stata che per anni ho preso il tram nella mia città senza timbrare il biglietto. Ma poi e se la beccavano? Mi è capitato di andare a Roma per fare un'esperienza di stage. E l'hanno segnato. E a Roma sono stato subito sgamato da un controllore e mi ha dato una multa, ho provato un senso di vergogna fortissimo, quindi questa per me è stata una lezione che ho riportato a casa e da quel momento ho sempre fatto il biglietto, quindi penso che una sanzione possa essere anche educativa, diciamo, a questo punto di vista. Diciamo, se il furbo viene punito, il furbo, almeno se non è incallito, non fa più quel tipo di furbizia, cioè pagherà sempre il biglietto nell'autobus, ma continuerà magari a fare altri tipi di furbate che non prevedono sanzioni pecuniarie. Sì, è stata una lezione anche su altri versanti, insomma, io lì mi adeguavo a quello che faceva la maggior parte della gente. Comunque, guarda, io devo dire, ma lo dico... con grande senso di sconfitta. La trasmissione è finita, siamo arrivati agli ultimi sgoccioli, ma in realtà non sono riuscito ancora a cogliere fino in fondo quello che è il vero senso di furbizia. Non sono riuscito a capire in realtà se qualcuno abbia mai il piacere e la volontà esplicita di ammettere la soddisfazione della furbizia. Essere riusciti a superare una situazione grazie alla furbizia. Forse questa è soltanto una mia personalissima e limitatissima. Mi dite continuo, sono le 10:58, devo ridare la linea, cosa continuo? Sta chiudendo la trasmissione. Mi dispiace per chi sta in ascolto, era l'ultima possibilità di quest'anno poter andare in diretta e quindi furbamente se l'è giocata, ma perché semplicemente la sigla incombe. Vi auguro un buon fine d'anno e vi auguro che l'anno nuovo sia un po' meno disgraziato di questo che è passato, almeno parametrato sulla mia personale esperienza. Ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti e ci sentiamo l'anno nuovo. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.